Italia in controluce. Buon pomeriggio, Italia in controluce, la cronaca, il racconto, la narrazione sulle storie italiane, due edizioni quotidiane su Radio 24, condotte da Daniele Biacchessi. Piccola bufera su Alitalia. L'amministratore delegato Rocco Sabelli auspica una fusione con Air France dal 2013. Questo è almeno quanto si legge nel nuovo libro di Bruno Vespa. Sì, ancora lui. Pressato dal governo e dallo stesso Colaninno, presidente della CAI, Sabelli però ha dovuto correggersi affermando che è solo una sua idea. Il racconto di Valeria De Rosa. All'Italia, questi 15 coraggiosi imprenditori che hanno mantenuto nelle mani dell'Italia la nostra compagnia di bandiera, che così può portare in Italia i tanti turisti che cresceranno di numero. Correva l'anno 2008, l'Alitalia versava in condizioni disperate, arrivò la cordata tutta italiana a salvare la compagnia di bandiera. Due anni dopo abbiamo voluto sentire che aria tira, perché piovono qua e là dichiarazioni, poi smentite o ridimensionate, che fanno pensare. Pare che la D. Sabelli abbia intenzione di proporre ai soci la fusione con Air France, che ad oggi ha una partecipazione del 25%. Lo si legge nell'ultimo libro di Vespa. Sabelli ha poi aggiustato il tiro. È solo un'idea, avrebbe detto. All'inizio di settembre però la D. si era lasciato sfuggire un'altra affermazione, passata un po' sotto silenzio. Durante una convention con i dipendenti, Sabelli dice che la compagnia ha bisogno di una razionalizzazione. In molti in platea traducono: sta parlando di tagli. Sabelli dice che i patti siglati a Palazzo Chigi parlavano di 12.600 assunzioni e che attualmente Alitalia ha quota 14.000. Filt CGL e SDB contestano. Francesco Staccioli, del sindacato di base. È molto probabile che l'azienda abbia un obiettivo di ridimensionamento, perché in alcune categorie, in particolare i naviganti, lei ha già ridimensionato, perché ne ha assunti meno di quanto si era impegnati a assumerli a Palazzo Chigi, e ha applicato delle solidarietà espansive, che sono un istituto di legge che prevede che la gente vada in una forma di part-time, senza assumere o senza assumere tutti quelli che avrebbe dovuto assumere rispetto alle 800 persone che poi hanno chiesto di aderire a questo istituto. Quindi ci abbiamo già due categorie su tre che sono già ridotte rispetto a quello che erano le previsioni di Palazzo Chigi. Per quanto riguarda Terra invece, loro dicono che hanno assunto più persone, ma i dati ufficiali non li ha nessuno. Si sa che CGL e SDB sono più rigidi, la posizione degli altri sindacati è più morbida, ma sempre ferma, come sottolinea Alessandro Cenci, che parla a nome dei comandanti della FIT CISL. Posso dirle cosa ha detto l'ingegner Sabelli al convegno della CISL sul trasporto aereo del 16 settembre scorso, dove ha delineato un quadro di Alitalia che è in linea con il mercato. Una domanda ancora debole, quindi l'azienda sta andando come non potrebbe andare che in questa situazione, quindi benino rispetto alla prospettiva di mercato ancora difficile. Per quanto riguarda i presunti esuberi, l'azienda ha soltanto detto: rispetto al progetto Fenice, che prevedeva 12.500 addetti, siamo a 14.000. Questo non vuol dire che licenziamo 1.500. Noi abbiamo fatto chiaramente capire all'amministratore che non siamo disposti ovviamente a trattare i licenziamenti. In pubblico Rocco Sabelli appare sempre molto fiducioso. Sui conti, per esempio, Alitalia prevede di chiudere l'anno con perdite nette di 160 milioni di euro, dimezzate rispetto al bilancio 2009. Nel 2011 cresceremo ancora e pensiamo di farlo perché aumenteremo la capacità sull'intercontinentale, dice Sabelli, dove avremo un nuovo collegamento Roma-Rio de Janeiro e Roma-Pechino. Questo per il futuro. Ma fino a oggi cosa è stato fatto? Francesco Staccioli. Rotte concrete no. Abbiamo passato un'estate ad affittare voli agli altri con gli aerei all'Italia a terra e personale in cassa integrazione fuori. La gente è stata impiegata ai massimi possibili, non c'è stato alcun effetto di un'eventuale ripresa dell'attività, che già da quest'anno dobbiamo manifestare i primi segnali. Ci sono due rotte ipotetiche, ma bisogna vedere se queste rotte che aprono, bisogna vedere se è un aumento d'attività o una ridistribuzione. È così che ci è venuto il dubbio. Vuoi vedere che Sabelli sta pensando davvero di passare tutto il pacchetto Air France? Abbiamo chiesto il parere di Marco Ponti, ordinario al Politecnico di Milano. Sì, e forse anche auspicabile in qualche misura, perché le caratteristiche di Alitalia lasciano un po' perplessi, nel senso che è una compagnia medio-piccola che però si estende su tutti i mercati, cioè il mercato nazionale, il mercato europeo, il mercato intercontinentale, il che la mette in una posizione abbastanza difficile. Quindi che sia assorbita da una compagnia più grande o che faccia una fusione più intensa con una compagnia più grande come Air France, che ha